mandati, dormivi, poveretta, sì, perdonate. Signor di Granville, oh, il vero amico, alzarmi vu, meta. Sì, come vi sentite? Soffre il mio corpo, ma tranquilla ho l'anima. Mi conforta ier sera, con te, ministro, questa notte ebbi tranquillo il sonno. Coraggio adunque, la convalescenza non è lontana. Addio, a più tardi. Non mi scordate. Come va, signore? Latissimo le accordo che poche ore. Fate cor, giorno di festa è questo, tutta Parigi impazza, è carnevale. Oh, nel comun tribunio sanno intero quanti infelici soffrono. Quale somma va in quello stipo? 20 luigi. 10 ne reca i poveri tu stessa. Poco rimandi allora. Mi saranno bastanti. Cerca poscia mie lettere. Ma voi? Non lo corrò. Sollecita se puoi. Teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in estraneo suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Germont, a tardi. Attendo, attendo, ne ami giù.